Siamo con Emiliano Viccaro di CLAP, Camere del Lavoro Autonomo e Precario, per parlare di CLAP and Go, festival al Casale Garibaldi a Roma, 26-27 maggio. Emiliano, ben trovato. Bentrovati a tutti voi. Cominciamo dall'inizio, intanto raccontiamo un po' cos'è l'esperienza CLAP. Sì, allora, le Camere del Lavoro Autonomo e Precario nascono alla fine del 2013 da una lunga traiettoria, una lunga sperimentazione. Comunque, negli ultimi 20 anni, in qualche modo, i movimenti sociali, gli spazi sociali hanno attraversato, si sono interrogati sul tema, cioè come ripensare la difesa, la tutela, l'organizzazione dei precari, né in un mondo del lavoro completamente trasformato, in un mondo del lavoro ormai legato ai processi delle piattaforme, della logistica, del lavoro che è diventato super precario e sempre più comandato da sistemi anche quasi informali, insomma. E quindi dentro questa sfida, ovviamente complicata e difficilissima, di cui nessuno ha la chiave, insomma, abbiamo provato a costruire una pratica, una sperimentazione, partendo da alcuni spazi sociali, da alcune esperienze autogestite che provavano a costruire quella vecchia sfida di immaginare le camere del lavoro e non lavoro contemporanee. E quindi ci siamo strutturati in un'associazione, diciamo, neosindacale, che prova però non essere il classico sindacato magari più radicale di altri, ma che con pazienza, fatica e sperimentazione appunto prova a mettere le mani nel piatto, cioè costruire nuove forme di tutela, organizzazione e conflitto per i precari di ogni risma, per i precari sia diciamo subordinati, ma anche quelli relativi al lavoro autonomo, sempre più impoverito. Diciamo, questa è stata la scommessa Sì. iniziale. Senti, Emiliano, c'è uno spazio, una sede di riferimento, una riunione aperta a cui affacciarsi, un luogo internet di riferimento? Allora, noi apriamo una riunione centrale che coincide anche con la riunione degli appuntamenti di sportello vero e proprio, sportello legale, sindacale e della commercialista di consulenza fiscale. Sì. E lo teniamo ogni lunedì a ESC, Atelier Autogestito, a Via dei Porci 159. E poi abbiamo però anche altre sedi, abbiamo appunto info point anche al laboratorio puzzle del Tufello e abbiamo uno sportello di primo contatto a Casale Garibaldi che è attivo lunedì, mercoledì e venerdì, sia mattina che pomeriggio, che in qualche modo fa da filtro di primo contatto per i casi dei lavoratori, delle lavoratrici che sono interessate appunto al servizio sia legale, sindacale che fiscale. Ecco, questi sono gli appuntamenti strutturati e poi ogni tanto costruiamo appuntamenti pubblici, possono essere seminari, approfondimenti, ma anche vere e proprie assemblee delle iscritte e degli iscritti, cosa che faremo il prossimo 19 maggio dalle ore 16 proprio ad ESC, dove ci incontreremo con tutte le vertenze, le persone, i lavoratori e le lavoratrici che abbiamo incontrato in questi anni, che sono assemblee ovviamente un po' diverse anche dal cliché a cui siamo abituati diciamo, nel movimento, né nei movimenti sociali per come si determinano. Cioè, per noi è una sfida misurarci su temi in cui anche il linguaggio, anche i codici che spesso utilizziamo come militanti devono essere messi a disposizione, cambiati e trasformati perché incontriamo assemblea dove il tema della rivendicazione, della questione specifica, ovviamente questione specifica sempre legata a questioni generali, insomma, anche quando si parla del mondo del lavoro, però questa è una sfida di nuova aggregazione, offrire nuove forme di mutualismo che vadano oltre anche soprattutto i circuiti militanti. E sul web? Sul web abbiamo la nostra pagina web, club.infonet, dove ci sono tutte le informazioni, i servizi che diamo, le campagne a cui aderiamo e che promuoviamo, perché insomma, dentro questo difficile lavoro di ricostruzione anche organizzativa, un mondo del lavoro frammentario, però non dimentichiamo mai che questo lavoro anche minuto, specifico, puntuale deve essere tenuto dentro campagne di largo respiro. Quindi, Sì. ad esempio, per noi è fondamentale la campagna per un reddito di base incondizionato. Ok. Reddito e salario si tengono insieme, non c'è più una separazione. Lottare per il welfare o per i diritti sul lavoro significa anche costruire nuovi rapporti di forza e quindi costruire nuove forme di tutela generale come quella del reddito. Emiliano, arriviamo al festival. Una 3 giorni a Casale Garibaldi, ce la illustri un po'? Sì, diciamo che sono alla fine 3 giorni che partono il 25 sera e con una puntata speciale di Periferie contro Roma, che è un ciclo di incontri di cui abbiamo già parlato, Sì. in particolar modo ne ha parlato Giuliano Santoro la scorsa volta. E siccome il tema di quest'ultima puntata non era pertinente anche al festival, in qualche modo è una sorta di prologo off del festival. E si tratterà di due conferenze, una tenuta da Alberto De Nicola sulla politica economica dei poveri e l'altra da Francesco Raparelli che è l'antropologia politica della metropoli. E, insomma, sono due temi che in qualche modo entrano nel vivo della composizione sociale della metropoli, le sue linee di confine sociali oppure relative al lavoro o al colore. Insomma, ricostruire anche un'analisi, diciamo, di classe della struttura della città. Dopo le conferenze ci sarà una coda musicale, grazie ad Andrea Benedetti, insomma, che sta seguendo il filo luce della musica elettronica in questo ciclo di incontri. E poi si passa a sabato 26 e domenica 27. E sabato 26 abbiamo un programma ricco anche che va oltre, diciamo, il tema classicamente inteso come appuntamento assembleare. Inizieremo dalla mattina con un progetto legato a Batti il tuo tempo, che è un punto di aggregazione giovanile che sta anch'esso purtroppo sotto attacco da questa amministrazione, e insieme a loro faremo un murale, un disegno, una pittura murale qui su una delle pareti del Casale Garibaldi, insieme a dei ragazzi che stanno costruendo appunto un'idea, un disegno attorno ai temi della sopravvivenza nel mondo della precarietà. E poi nel pomeriggio avremo uno spettacolo per i più piccoli, con un laboratorio fatto dai genitori e Capitan Calamaio, che ormai è diventato una figura mitologica del teatro per bambini di questa città e non solo. E poi nel pomeriggio, verso le 19, avremo il primo appuntamento relativo ai temi del festival. Faremo un'assemblea attorno alla questione del lavoro nel mondo culturale, mettendo insieme tre ambiti del lavoro culturale, secondo noi, importanti e paradigmatici della crisi generale: il mondo dello spettacolo, il mondo della piccola e media editoria e il mondo del lavoro relativo agli operatori culturali e alle guide turistiche. Questo perché pensiamo che in questo campo, in particolare del lavoro artistico-culturale, si sono in maniera forte segnate le contraddizioni che poi sono espresso in tutto il mondo del lavoro. E poi chiuderemo con uno spettacolo teatrale molto interessante di un duo che farà teatro e fuoco. Sarà, insomma, uno spettacolo quasi circense. Benissimo. Allora, ricordiamo l'appuntamento con Clap and Go a cura delle Camere del Lavoro Autonomo e Precario al Casale Garibaldi a Roma dal 25 al 27 maggio, una 3 giorni. Un ringraziamento e un saluto a Emiliano Viccaro. Emiliano, un abbraccio, a risentirci presto. A presto, grazie anche a voi. Ciao.